le stelle, le più belle con te. Ma tra tutte, d'ogni stella, la più bella sei tu. Daina, nel tuo sorriso, Daina, c'è il paradiso. La tua bocca è un dolce fior e chi la tocca prova allor un fremito d'amore. Daina, tutta la vita, Daina, sarà squisita e sol per me io voglio te. Così poter sognare, Daina, vicino al mio cuore.